Francesco introduce anche il tema, uno degli altri nodi, che è quello della rappresentanza, anzi della crisi della rappresentanza da questo punto di vista. A molti di noi è sembrato, proprio definendo l'antipolitica, ragionando e scherzando anche su questa battuta dell'antipolitica, che l'unico luogo veramente dove non si può decidere nulla sia il Parlamento italiano, perché decidono altri. Questo tema della rappresentanza riguarda però anche i movimenti. I movimenti consolidano rappresentanza nel loro corso e io credo che sarebbe assurdo non porci questo problema. Noi oggi abbiamo, credo, questo problema, indagare sul nodo della rappresentanza esterna ed interna per costruire movimenti contro la guerra oggi. Do la parola a Giorgio Cremaschi e lo ringrazio anche di essere qui con noi. Grazie. Dicevo prima Luca, e siccome glielo dicevo di nascosto glielo dico anche in pubblico, che un problema di rappresentanza è anche il fatto che qui siamo tutti maschi su questo tavolo, mi pare, e siamo un po' talebani, anche noi, e io credo che la rappresentanza è anche questo, e mi pare evidente che noi siamo di fronte a una crisi totale della rappresentanza, anzi siamo a un'autonomia dei rappresentanti rispetto ai rappresentati. I processi in corso nella politica hanno tutti lo stesso segno: c'è una marcia verso l'alto, cioè verso la riduzione degli spazi di comunicazione e di rappresentanza tra chi sta nelle istituzioni e chi sta fuori di esse, e c'è anche una marcia verso il centro, cioè verso quel buon senso che appunto ti dice no alla guerra di Bush, ma sì alla guerra dell'ONU, no alle politiche liberiste sfacciate di Berlusconi, ma sì a quelle, diciamo, per bene di Padoa-Schioppa. Ecco, mi pare che c'è una marcia in questa direzione, cioè da un lato verso una politica internazionale più rispettabile, meno sfacciata, ma che persegue però gli stessi punti di fondo di quella precedente, senza cambiarne la sostanza, e dall'altro il fatto che questo processo avviene con appunto la marcia verso l'alto, il distacco della rappresentanza. Io devo dire, sarò un ingenuo, ma a me sconvolge il fatto, non la vicenda in sé di Turigliatto, non Turigliatto, di Cannavò, di Cacciari, a me sconvolge il fatto che di fronte a quello che sentiamo noi, a quello che sentite voi che siete qui, a quello che sentono le persone che erano ieri a Roma, che secondo me rappresentano, io non so se sono la maggioranza, la minoranza, diciamo che sono una buona parte del paese, a me interessa il fatto che di fronte a questo il 98,98% del Parlamento sia a favore dell'intervento in Afghanistan. Io dico che questo Parlamento così non rappresenta il paese. Questo è il problema, non rappresenta il paese, c'è già un'astrazione della rappresentanza. Ora so bene che a questo punto mi si risponde no, ma non è così, appunto io non lo faccio perché io sono d'accordo con te, però in realtà penso un'altra cosa e ne faccio un'altra ancora. Ecco, questo è l'altro problema, questo secondo me però è solo nostro. Questa è proprio la degenerazione della politica in Italia, cioè questo fatto che ogni cosa viene spiegata col suo contrario. Io sono più pacifista di te, però voto a favore dell'intervento in Afghanistan. Perché? Perché così? Perché devo sostenere? Poi c'è la questione di Berlusconi, poi alla fine, no? Io penso che Berlusconi, io non so se è ancora vivo o se esiste, però certo ho l'impressione che verrà imbalsamato e tenuto fisso lì, perché come babau, come sparacchio, perché come spauracchio, perché attenzione, qualsiasi cosa si fa, se no torna Berlusconi, e sulla base di questo c'è il blocco totale della politica italiana. Ora io credo che da questa situazione bisogna porsi il problema di come uscire, perché così loro già, leggevo questa cosa divertente che c'è oggi sul manifesto, non so chi l'ha scritta e non so come è venuta fuori ieri, cioè che il mondo dei politici italiani è in Second Life, no? Quel sito di internet nel quale uno si inventa una seconda vita. C'è la nostra vita normale, poi c'è Second Life. In realtà non è così, perché poi Second Life è quella che fa le leggi, fa gli interventi, quindi non è così. Magari fosse, cioè sarebbe bello se potessimo dire fatevi la vostra Second Life in cui fate i partiti, li disfate, le costituenti, le controcostituenti, le sinistre, le controsinistre, cioè fate quello, poi nel frattempo però ogni tanto ci sono le questioni concrete delle quali bisogna discutere. Allora io, per dirne due o tre e arrivare subito quindi alla conclusione che mi interessa, io penso che noi abbiamo bisogno appunto di tenere la barra dritta sulle grandi questioni sulle quali non solo in Italia ma insomma in tutto il mondo a partire dalla fine degli anni 90 ci si è rimessi in moto. Il primo è, non c'è dubbio, abbiamo sentito qui le parole di Gino Strada, io non ci voglio girare intorno, è il rifiuto della guerra. Il rifiuto della guerra è costituente della politica, non si può girarci intorno su questo, non si può derubricarlo a seconda questione. Noi questa derubricazione della guerra a seconda questione in Italia è un fatto che c'è, insomma, l'abbiamo già avuto, non sai che adesso non è una novità, cioè quando bombardavamo il Kosovo quello era un intervento umanitario, come sapete, era una dolorosa necessità, ognuno usava i suoi termini. Quindi abbiamo già avuto un periodo della storia del nostro paese nella quale si è mistificato l'intervento bellico. Io penso che il rifiuto della guerra è, non c'è dubbio, costituente della politica. Se tu accetti in qualche modo la logica della guerra, io non voglio dire diventi guerrafondaio, eccetera. Dico, scegli un certo tipo di politica che è diversa da quella che hanno rivendicato i movimenti a partire da quello che c'è stato in Italia in questi anni. Io so bene che quando siamo scesi in piazza contro Berlusconi, sulla guerra, quando abbiamo detto no alla guerra in Iraq, a quel punto avevamo un movimento molto più vasto, perché assieme a noi c'era anche chi non era contro la guerra in quanto tale, ma era contro la guerra perché la faceva Berlusconi e Bush, e una guerra fatta dall'ONU invece gli sarebbe andata bene. Ecco, il punto è che noi vogliamo porre, il primo punto, è che secondo me non può essere fuori dalle istituzioni, altrimenti è un problema delle istituzioni, non solo nostro, la posizione di chi dice no comunque alla guerra, sia la guerra voluta dall'ONU, sia la guerra voluta da Bush. Perché la guerra voluta da Bush è chiaramente in crisi, ne avete, mi pare, discusso anche ieri. Non è che Bush è diventato buono, Bush ha perso, sta perdendo la guerra in Iraq e quindi ha bisogno di ricostruire un sistema di alleanze, ma non è che poi dopo cambia la politica di fondo. Il problema, ripeto, è il no alla guerra come strumento. Seconda questione legata a questo, non è il tema di oggi ma lo vorrei però accennare se non altro per ragioni di mestiere, è chiaro che questa spinta verso la guerra non nasce in astratto, ma nasce da un modello sociale fondato su quella parola maledetta che oggi ci mettono in tutti i terreni, che si chiama competitività. È questa parola, la competitività dei sistemi, la competitività delle aziende, la competitività delle persone, dei lavoratori. Questa è una guerra senza formale, perché poi un prezzo c'è, spargimento di sangue. Non è la semplice concorrenza la competitività. La competitività è una forma estrema di guerra economica nella quale ci vogliono portare e nella quale i sacrifici sono chiari. Le pensioni, i diritti, lo stato sociale, il posto di lavoro, l'occupazione, la precarietà, tutte queste cose sono i prezzi che noi dobbiamo assumere per avere questo livello di competitività. E quindi non c'è dubbio che questo è l'altro versante. E allora concludo Come si ricostruisce questo? E non c'è dubbio. Noi dobbiamo, noi, voi, insomma, quelli che diciamo non se la sono bevuta in questi anni questa storia e che non accettano che basti un cambiamento di governo per cambiare politica, devono riportare in campo con forza una parola che almeno io, a me è molto chiara, l'indipendenza dei movimenti. I movimenti non hanno governi amici, non possono averli. Quando i movimenti cominciano a farsi condizionare da quella malattia che io chiamo sindrome del governo amico, perdono, si riducono, diventano un'altra cosa. E io penso, lo dico perché lo sento anche, me lo sento anche rimproverare anche da altri terreni, nei luoghi di lavoro, guardate bene, noi non possiamo concedere a Prodi quello che non abbiamo concesso a Berlusconi, questa è la sostanza. Non possiamo, perché se lo facciamo, intanto comunque non rafforziamo Prodi, che come sapete si fa tanto male per conto suo, si basta vedere quello, cioè voglio dire, non siamo noi che abbiamo fatto perdere a Prodi il 10-15% di consenso in 6 mesi, no? Quindi si fa male per conto suo comunque, ma noi invece riduciamo la nostra capacità di iniziativa, la nostra credibilità. E questo è l'investimento sul futuro, perché i governi passano, i movimenti devono restare. E noi abbiamo bisogno di costruire un percorso duraturo nel tempo. E allora io credo dobbiamo rafforzare appunto il concetto di indipendenza dei movimenti dal quadro politico, dai partiti. Io dicevo prima con Luca, io sono un po' esterrefatto, noi facciamo, voi fate questa assemblea, siamo già catalogati, no? C'è la costituente del Partito Democratico, poi c'è la costituente di Bertinotti Mussi e poi ci sarebbe l'altra costituente di noi qui. E capite, purtroppo, ma che se ne importa? Cioè, devo dire, i partiti, mi viene a dire certe volte, devo dire, i partiti sono partiti, salutiamoli e costruiamo il movimento, l'esperienza, le lotte, perché credo che in questa fase c'è bisogno di una... Poi, questo naturalmente non è il futuro. Io, essendo, diciamo, di scuola un po' antica e anche un po' conservatrice su queste cose, so bene che la totale estraneità dei movimenti alle istituzioni alla lunga non funziona. Cioè che abbiamo bisogno di avere dentro lì gente che si dia da fare, che apra crisi, che faccia la sua battaglia. Però non posso lasciare condizionare la mia esistenza attuale dal fatto che adesso c'è un'altra cosa. Cioè non posso tenere, come si dice, il tempo del movimento con la borsa del Senato o con l'andamento della fiducia e sfiducia, eccetera, perché così divento matto come loro. E quindi non posso che assolutamente in questa fase autonomizzare la storia dei movimenti, costruendo più che del passato forme di discussione, pratiche di democrazia, pratiche di confronto tra diversi che tengano conto tutti, anche perché la grande novità che sta emergendo oggi in tutte le istituzioni, lo dicevo anche prima con Fabio Corazzina, è che le istituzioni si sono rimesse tutte a reprimere i dissidenti, no? Siamo ritornati alle espulsioni, agli allontanamenti, siamo ritornati a un modello per cui c'è una maggiore intolleranza di tutte le istituzioni, segno evidentemente di debolezza, verso il dissenso. E allora io credo che noi dobbiamo anche qui tra di noi dimostrare quest'altra cosa, cioè che la forza del movimento è la pratica delle diversità, del confronto tra le diversità. Io penso che sta a noi provare a ricostruire la politica, visto che gli altri, come diceva prima Luca, in nome della politica stanno diffondendo una cosa che sta estraniando le persone dalla partecipazione della politica stessa. Grazie.